this brain fog that and Wednesday. In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che diviseziona lo sfruttamento. E allora, quando sono le 21:20, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come ogni lunedì, questa è Radio Possum. Ormai con due nuovi tra redattori e redattrici di calibro internazionale, come già abbiamo potuto osservare in passato. Una muta, ma parlerà. Allora, intanto ciao. Ciao, buonasera a tutte e tutti. Questa sera affronteremo un tema nuovo che non è stato affatto trattato negli ultimi giorni, né dai media, diciamo così, tradizionali, né da questa radio o da altre radio. Quindi parleremo ancora di Expo. Quindi io direi, non lo so, vuoi dire qualcosa oppure lasciamo andare la sigla, mettiamo la canzoncina? Beh, possiamo dire che insomma è stata una manifestazione particolare, molto partecipata, che ha avuto delle frange di un certo tipo, insomma, che si sono staccate e hanno operato in altro modo, oscurando un po' il messaggio generale della manifestazione, che era sicuramente tutto un altro. Adesso cercheremo un po', anche tramite un'occhiata magari ai giornali del 1° di maggio, del 2 di maggio, di vedere un po' com'è andata e che cosa poteva essere dietro a tutto questo. Ok, mettiamo un po' di musica. People don't think. Rieccoci in onda finalmente dopo questa breve pausa musicale. Allora, intanto non lo so se ci volete raccontare un pochino qualche cosa, le voci, quello che insomma cosa esprimeva questo spezzone antispecista e perché c'era uno spezzone antispecista anche contro Expo, quindi diciamo se c'è una critica proprio antispecista contro Expo o se magari invece è stata una voglia di partecipare a una cosa più ampia in cui comunque si era tutti contro qualche cosa. Beh, questa è certamente una bellissima domanda retorica, perché ci sono e come i motivi per essere contro Expo pur essendo antispecisti. Anzi, diciamo che lo spezzone è stato abbastanza partecipato, con oltre 150 persone a reggere, diciamo, tre mini spezzoni con i loro cartelloni, ciascuno reggeva il proprio, diverse associazioni. Si cerca di, con lo spazzone antispecista, si è cercato di far vedere anche agli altri partecipanti al corteo, perché molti non se ne rendono conto, che esiste anche una parte di sfruttamento che non è soltanto umano, cioè le multinazionali che hanno banchettato all'apertura di Expo con il beneplacito dei governi non sono soltanto un meccanismo di dominio sull'essere umano, ma altrettanto sull'animale. E questo ovviamente è alla base, come noi sappiamo, di un po' tutto quanto il meccanismo dello sfruttamento. Quindi con queste idee molti attivisti animalisti e antispecisti si sono presentati al corteo per l'Expo e hanno sfilato insieme a tutti gli altri, movimenti per la casa, movimenti per l'acqua, per i beni comuni, comitati di base, organizzazioni, insomma ce n'erano di tutte le salse, diciamo. Alcuni striscioni che ci è capitato di vedere, per esempio, recavano le scritte Liberté, Égalité, Fraternité, con disegni tutti tutt'altro tenore, per esempio un macellaio con in mano un coltellaccio e un maiale legato in attesa della sua sorte. Quindi questo a rappresentare quale uguaglianza? Nessuna, sostanzialmente. Poi, dunque, abbiamo visto, c'erano persone con al collo cartelli che dicevano che l'Expo inquina, che gli animali muoiono anche se sono bio. In effetti questo è sicuramente un tema che viene affrontato dall'Expo, quello del mangiare sano, del mangiare bene, ma poi non si... Sì, diciamo che è proprio uno dei punti di forza dell'Expo in pieno stile renziano, è proprio quello di presentare delle cose orribili, proprio presentare la merda con una facciata dorata e venderla come oro. Quindi ci sta questa esaltazione del made in Italy, di tutto quello che è italiano, è bellissimo e buonissimo, quando poi insomma viviamo nei nostri territori il peggiore inquinamento di tutti i tipi, dai rifiuti industriali, discariche eccetera. Però se è italiano va bene, quindi ci sta questa facciata anche per quanto riguarda il lavoro eccetera, e sicuramente la stessa cosa viene fatta con il cibo, visto che viene presente qualsiasi cosa, se è biologica è più buona. Poi sappiamo che in realtà è una certificazione che si può anche comprare, quella del biologico, quindi lascia anche il tempo che trova. Esattamente, infatti, e questa poi viene fatta, è la bandiera, diciamo, di movimenti, più che movimenti li chiamerei gruppi come Italy o Slow Food, che fanno di quella che si può chiamare la coppa anche. Ah, certamente anche la coppa, che fanno di quella che si può chiamare bioviolenza la loro bandiera, diciamo, distintiva. Cioè loro si proclamano come quelli che fanno soffrire di meno l'animale, che lo fanno vivere meglio, ma è sempre un vivere meglio in funzione antropocentrica, cioè servirà poi questo animale a uno scopo, a quello di finire in un piatto. È la retorica che si può dire della carne felice, sostanzialmente. E Slow Food Italy e la Coop sono un emblema di questa ipocrisia, se vogliamo dire, no? Sì, e poi non a caso rappresentano anche la nuova dirigenza di sinistra che ha scelto Renzi poi come guida spirituale per il nostro paese, e di questo non potremo mai ringraziarla abbastanza, come al solito. Assolutamente. Beh, poi avevamo altri striscioni che per esempio recitavano No War but Class War, cioè nessuna guerra ma una guerra di classe, una pace tra gli oppressi e una guerra agli oppressori, quindi una sorta di tentativo di schierarsi tutti da una parte contro quell'altra parte, che invece non era presente al corteo, bensì era presente all'inaugurazione della Grande Esposizione Universale. Vai, sì, no. Noi qui intanto stiamo cercando di scorrere le foto che sono state fatte degli striscioni, perché appunto poi i contenuti di una grande manifestazione sono sempre tantissimi, quindi è anche difficile ricordarseli a memoria. Ecco, per esempio c'era questo cartello simpatico, beh, io uso l'aggettivo simpatico, in realtà di simpatico c'è poco, che diceva Feeding the planet with the life and suffering of others, cioè nutrire il pianeta con la vita e la sofferenza degli altri, con disegnato un povero maiale chiuso in una gabbia e ormai deciso e rassegnato alla sua sorte. Tutte retoriche che spesso e volentieri nei movimenti, diciamo, tradizionali si sentono poco, quindi è stato anche importante portare questi messaggi all'interno di una manifestazione come quella No Expo, che sebbene sia stata poi sui giornali il giorno dopo stigmatizzata come una manifestazione violenta, aveva al suo interno messaggi che erano di tutt'altro tenore, quindi invitavano anzi ad ampliare la riflessione su temi che non venivano di solito considerati. sì, diciamo che poi quello che c'è al margine delle manifestazioni è quello che poi interessa ai giornalisti, è la spettacolarizzazione, quindi a loro piace parlare di tutto e del contrario di tutto. Naturalmente è molto facile per i giornali poi non parlare delle vere motivazioni di Expo, visto che poi sono gli stessi giornali che si spingono l'Expo e lo presentano come un grande progetto per l'Italia, come l'ennesima iniziativa di riscossa per questo paese in declino. Assolutamente, basti pensare che chi ha fatto il grosso errore come me per curiosità di acquistare la Repubblica il 2 di maggio, insomma, visto che tutte le pagine, anche quelle che parlavano del corteo e della protesta, avevano su il logo di Expo, proprio il logo, quello, il marchio registrato, quindi quel logo probabilmente, con tutta probabilità, comporta un finanziamento per essere pubblicato, perciò uno si chiede quale cronaca potrà mai avere, quale punto di vista potrà mai avere se sulla pagina di un giornale si trova il logo di uno dei due punti di vista da rappresentare. Certamente. Senti, una domanda che ti volevo fare, poi non so se c'hai qualche domanda anche tu, se no, ok, perfetto. La domanda che ti volevo fare è, era appunto per quanto riguarda la partecipazione delle cosiddette anche associazioni animaliste, comunque vari gruppi, gruppuscoli, gruppetti che ci sono, visto che comunque hai accennato già al tema della bioviolenza, del fatto delle gabbie dorate, eccetera. Si è parlato negli ultimi anni spesso del benessere animale, c'è una forte componente del movimento, diciamo, animalista antispecista che parla di benessere animale. E sembra che Expo comunque voglia andare incontro anche a questo, quindi c'è molto un riflettere anche su diverse forme di alimentazione, ci sono padiglioni in cui vengono portate avanti tematiche come il vegetarismo, il veganesimo o comunque alimentazioni anche a base di alghe, di insetti che siano più sostenibili per il pianeta, eccetera, no? Però non viene mai fatta una critica radicale, quindi io volevo chiederti se ad esempio molte associazioni si sono schierate da questo punto di vista oppure non si sono schierate, e secondo te perché non si sono schierate, insomma, è una domanda molto aperta, ti lascio dire la tua opinione come vuoi. Guarda, dunque, è una domanda difficile, sia perché io dentro il mondo dell'associazionismo non sono proprio un abitué, sia perché comunque è un tema magari probabilmente scivoloso che alcuni non hanno saputo in qualche modo affrontare in modo diretto, perciò da quel che posso dire è che non c'è stato uno schierarsi netto da parte di molte associazioni animaliste, anzi, da quel che mi risulta, quasi nessuno si è schierato contro Expo. Noi conosciamo un'associazione che si chiama Oltre la Specie, loro hanno fatto comunicazione specificamente contraria con messaggi, ma perché poi si tratta di associazioni che fanno del messaggio politico dell'antispecismo la loro bandiera, perciò sono radicalmente diverse da chi poi non si schiera perché punta tutto sul tema dell'alimentazione o della salute o della quella che chiamavamo bioviolenza, cioè la minor sofferenza. Chi continua a vedere la questione animale in ottica antropocentrica, cioè sempre funzionale all'umano, cioè sempre un animale che deve soffrire meno, che deve essere accudito in un certo modo, ma che comunque che magari non deve essere mangiato, però sempre perché è un povero animale, insomma, non si va mai a fondo del messaggio e molte associazioni non vanno a fondo del messaggio. Chi lo fa poi riesce a collegare i due piani e anche in una manifestazione contro quella dell'Expo riesce a portare un messaggio forte, mentre invece chi non lo fa non riesce ad avere una comunicazione efficace in questo senso e magari preferisce tacere, perché una volta che vai all'Expo con i temi del veganismo ci puoi andare o dentro i padiglioni o fuori dai padiglioni. Se tu invece ci vai con un messaggio politico che dice non voglio lo sfruttamento, perché lo sfruttamento è trasversale, non è soltanto lo sfruttamento dell'umano, non è soltanto quello dell'animale, ma è una condizione endemica della nostra società, ecco, se tu ci vai con un messaggio del genere sinceramente penso che possa acquistare molta più forza. Sì, anche perché ne abbiamo parlato già molte volte anche da questi microfoni, ma credo che comunque sia un tema che ormai sia entrato nel dibattito già da tempo, viene anche usata la bandiera del veganesimo anche ormai da grandi multinazionali. Abbiamo visto persino McDonald's si è organizzato con il menù vegano, quindi se non riusciamo ad associare a questo discorso un discorso concreto di critica, stiamo veramente parlando di fuffa, perché non c'è nessun tipo di cambiamento sociale aspirato. Assolutamente, tu potrai fare tutta la presa che vuoi sull'opinione pubblica, diciamo più generalista, più lontana da questi temi, ma quando entri in un corteo come quello dell'Expo, almeno non ci entrerai mai se tu mantieni soltanto quel piano di riflessione. Il piano di riflessione è molto più ampio, lo dimostra il fatto che c'erano anche striscioni, diciamo, antisessisti che si saldavano fortemente, come se noi prendiamo il tema dello sfruttamento e della discriminazione alla lotta per la liberazione animale. Per esempio c'era scritto, diciamo, il movimento No Expo antisessista ha portato uno striscione con scritto No Expo Pride, con scritto né normali né sfruttate, siamo libere e autodeterminate, quindi con una grossissima vagina gonfiabile a corredo. È tutto bello rosa shock in questo striscione. Questo significa che quando si entra in movimenti del genere che hanno una proposta politica, si riesce a fare rete. Le associazioni e i gruppi animalisti che prescindono da questo discorso avranno magari una grossa presa, diciamo, mediatica e sui social network e sulla popolazione più lontana ancora da questi temi, ma quando si tratta di venire al dunque, cioè di confrontarsi con realtà diciamo che lottano per una stessa causa, anche se hanno abbracciato uno sguardo più ampio, ecco, in questo momento vengono a mancare. Questo dimostra il fatto che molte associazioni, anche insomma della nostra regione, non c'erano. Io direi magari mettiamo una canzone e poi continuiamo la nostra chiacchierata, pure per lasciare un attimo il tempo di riposare. Tu vuoi dire qualcosa? No, va bene, ok, questa è una puntata molto silenziosa, non vuole intervenire nessuno, ok. indietro! Assaggia i miei scarponi! Fermo! Perché la sua vita dovrebbe avere meno valore della tua? Finiamo la canzone e torniamo in diretta con un contributo che possiamo trovare sul sito Effimera, critiche e sovversioni del presente, quindi lo potete tranquillamente trovare sul web. È un contributo abbastanza lungo che si intitola Dalla parte dei teppisti di Franco Berardi Bifo. E non ve lo leggiamo tutto perché appunto è un contributo lungo, però ci interessava mettere qualche spunto. Prego. Dunque, Bifo critica un pochettino l'articolo che è uscito sul Manifesto a firma di Luca Fazio, che ha parlato di 3.000 teppisti che hanno rovinato il banchetto all'Expo. E lui, insomma, guarda da un altro punto di vista questo atto considerato di violenza e prova a dargli un'interpretazione. E lui, infatti, dice: ho letto l'articolo di Luca Fazio e vorrei esprimere un'opinione diversa dalla sua. Fazio scrive che i teppisti hanno rovinato una manifestazione democratica. Sarò brutale, con spirito amichevole. A che cosa serve manifestare per la democrazia? Che utilità può avere sfilare per le vie della città dicendo diritti, costituzione, democrazia? Io lo faccio talvolta, quando l'asma me lo permette, per una ragione soltanto. Incontro i miei amici e le mie amiche. È quel che ci è rimasto della sfera pubblica che un tempo chiamavamo movimento, ma non penso neanche lontanamente che si tratti di un'azione politicamente efficace. Ecco, quindi Fazio critica fortemente questo tentativo che in realtà si sta facendo da più parti per potersi rimettere insieme e proporre un'alternativa politica. Lui è un po' disilluso e sostiene che la politica non abbia quasi più nulla da dire nel mondo di adesso, perché sostanzialmente sostiene che la lotta di classe l'hanno vinta i padroni. Infatti lui dice: democrazia, ma di che democrazia stai parlando? L'80% dei greci appoggia il suo governo, ma la Banca Centrale Europea ha detto con chiarezza che le regole non le stabilisce l'80% dei greci, ma il sistema bancario. Quindi che i greci vadano a farsi fottere, e con loro la democrazia. Ma torniamo a Milano. 3.000 teppisti spaccano tutto? Non esageriamo, ma certo hanno fatto abbastanza fumo. E i giornali parlano di loro più che di Renzi, Armani e Bocelli. Come posso non essergliene grato? È una domanda piuttosto provocatoria questa di Bifo. E insomma è un articolo un po' disilluso, che insomma in persone magari come noi che cerchiamo un'alternativa, cerchiamo di lavorarci, ti taglia un po' le gambe, anche se sicuramente il tono è molto simpatico e divertente. E adesso magari passiamo un attimino alle conclusioni. Sono sempre più catastrofiche, perché lui dice: abbiamo perso tutto, questo è il punto, e il 1° maggio 2015 potrebbe essere il momento di svolta, quello in cui lasciamo perdere le battaglie del passato e cominciamo la battaglia del futuro. Non la battaglia della democrazia, né quella per i diritti, meno che mai la battaglia per la difesa del posto di lavoro, che è stata l'inizio di tutte le sconfitte. La battaglia necessaria, e forse a un certo punto anche possibile, è quella che trasforma la potenza della tecnologia in processo di liberazione dalla schiavitù del lavoro e della disoccupazione. Quella battaglia si combatterà cominciando a comportarci come se il potere non esistesse, rifiutando di pagare un debito che non abbiamo contratto, rifiutando di partecipare alla competizione del lavoro e alla competizione della guerra. È impossibile? Lo so, oggi è impossibile. I giovani che hanno aperto gli occhi di fronte a uno schermo uscendo dal ventre della madre si impiccano a plotoni, perché per loro il calore della solidarietà politica e della complicità amichevole sono oggetti sconosciuti. Ma se vogliamo parlare con loro, è meglio che lasciamo perdere i gettoni, la democrazia e i diritti. È meglio che impariamo a parlare della vita e della morte. Bene, sì, parole abbastanza pesanti. Comunque, appunto, si può leggere tutto quanto l'articolo cercando su internet Effimera, critica e sovversione del presente. Mettiamo ancora un po' di musica e poi ci avviamo alle conclusioni della trasmissione, credo. Rieccoci in onda e adesso rientriamo con una notizia, guarda, non so neanche come definirla, comunque possiamo dire che il Made in Italy fa proseliti dentro e fuori dall'Expo, se è vero che il nostro, diciamo, uno dei più grandi produttori italiani di pollo, Amadori, diventerà il fornitore ufficiale di McDonald's per l'Italia, quindi abbiamo una, le multinazionali del, come si può dire, dello sfruttamento da una parte, dall'altra del cibo spazzatura, avranno sicuramente segnato un punto in questo senso, perché riusciranno a propinare al consumatore più meno critico qualcosa che in realtà non è, sia per quanto riguarda il fatto che viene considerato una produzione buona, nostrana, locale, così non è, ovviamente l'inferno degli allevamenti intensivi lo vediamo qui in Italia come lo vediamo negli Stati Uniti, sia perché comunque insomma questi sono animali che noi potremmo conoscere uno ad uno e in questo modo ci allontaniamo sempre di più dall'individualità di ciascun essere vivente per trasformarla in carne, in oggetti, in un, insomma in un ammasso informe di carne che non ha altro nome se non quello della carne, appunto, non più, non è più considerata un animale, un singolo essere vivente, ma un ammasso informe di materia. Sì, devo dire che appunto come dicevi tu, questa è una notizia che va in linea con quella che è la moda del momento, diciamo che segue abbastanza il trend del Made in Italy che spopola, e io la inserirei anche nel discorso che facciamo prima su questo restyling di facciata che fanno un po' il cosiddetto greenwashing, no? Tutte quante le aziende multinazionali. In questo momento volevo citare anche la Coca-Cola, che sta facendo una campagna per quanto riguarda l'utilizzo di bottiglie di vetro, che fanno sia per una questione, diciamo, tradizionale, perché hanno cominciato con le bottiglie di vetro, sia perché il vetro è più sostenibile della plastica, quando sappiamo benissimo che è la Coca-Cola stessa a non essere sostenibile. Poi possono farci anche le bottiglie di carta riciclata 100% dalle scorie nucleari, però non ce ne frega niente. Comunque è una critica che va a priori, e quindi appunto io rilancio la palla anche sul discorso che facevamo prima, sull'impossibilità di tacere ancora per quanto riguarda le associazioni animaliste o i gruppi animalisti antispecisti che si definiscono tali su queste questioni, perché continuare ancora a con questi non detti, con queste prese di posizioni che non ci sono, e magari spingersi un certo tipo di politica che in Italia può essere nuova, può sembrare bellissima anche per quanto riguarda sponsorizzazioni eccetera, ma in altri paesi dove questi movimenti ci sono da più anni, come per esempio l'Inghilterra, abbiamo visto a che cosa porta, perché poi ci ritroviamo ad attivisti che fanno i presidi per strada in cui cercano di propinare cioccolato vegano che viene dalla Lind, perché solo perché è vegano, solo perché il cioccolato è fatto senza latte, o perché magari il cacao c'è scritto che è stato raccolto in un modo più sensibile nei confronti dei lavoratori che raccolgono il cacao. Non lo so, io non credo che questa possa essere un obiettivo che è accettabile per noi, quindi appunto rinvito voglio ritirare fuori il discorso che facevamo prima, perché secondo me un punto che forse è mancato in questo Expo, dove c'era anche questo striscione, questo spezzone antispecista, è stata proprio una presa di posizione netta da parte di tutte queste associazioni. Poi non so cosa ne pensi tu. Io sono d'accordissimo, ma questo purtroppo riguarda poi praticamente tutti gli aspetti della nostra vita e delle nostre società. Ciascuno spesso e volentieri, quando si trova alle porte la possibilità di avere più successo, di allargare la platea, di portare il suo messaggio a più persone, cerca il compromesso invece di rimanere un pochettino più dritto e più con la schiena, diciamo, dritta, ecco. E questo porta poi ovviamente a depotenziare il messaggio, a fare dei compromessi, a lasciare che altri prendano il sopravvento, altri molto più forti, perché se pensiamo che basta che McDonald's venda il pollo Amadori per depotenziare, oppure mettiamo la Coca-Cola faccia queste bottiglie riciclate di vetro per riuscire a rivendere il suo prodotto come ecosostenibile, ecco, lo stesso problema si può trasporre poi nel movimento animalista, quando uno parla appunto di bioviolenza, di carne felice o di gabbie più larghe. senza riuscire a uscire dalla cornice di questo discorso per parlare di gabbie che non devono esistere né per l'umano né per l'animale. Quando si sceglie di venire a compromessi con questi meccanismi, sicuramente la tua notorietà fa dei passi in avanti, riesci a portare il tuo discorso a più persone. Però è quello che non si capisce, perché sul momento si è inebriati dall'essere sulla cresta dell'onda, è che il tuo messaggio che arriva è largamente depotenziato. Tu non permetti alle persone di fare quella connessione particolare che ti permette poi di fare anche il salto di qualità nella proposta e di riuscire a incontrarti con movimenti come quello antifascista, antisessista, per poter elaborare veramente una nuova teoria del vivente e della convivenza civile. Questo è imprescindibile, io penso, questo tipo di discorso, ed è veramente sciocco e limitato fare compromessi e ammorbidire il proprio messaggio quando si sa benissimo dove si va a finire, o forse non lo si sa, probabilmente non lo si sa abbastanza. Sì, secondo me va anche aggiunto il fatto che a volte sì, c'è la malafede, che la voglia di notorietà, altre volte in realtà c'è una certa superficialità nell'analisi che considera appunto l'inserirsi di un aspetto che è quello appunto della scelta poi consumatore verso il veganesimo o comunque cruelty free all'interno del capitalismo, come la possibilità di fare dei passi verso un mondo libero, e non ci si rende conto che in realtà in questo modo ci si viene totalmente assorbita in un sistema capitalista, e da quello non se ne uscirà mai, perché se comunque anche fosse che gli animali non sono più le vittime di una macellazione massiccia, ma sono appunto le cosiddette carne felice, non si capisce che gli sfruttati sarà sempre qualcun altro se non si mette in discussione il capitalismo, e quindi ci sarà per esempio la deforestazione per produrre olio di palma, che poi è utilizzato nella maggior parte dei prodotti vegani, o l'agricoltura intensiva di soia, e quindi comunque continueranno a essere uccisi animali, essere distrutti ecosistemi, sfruttati lavoratori e quant'altro. E quindi semplicemente se non si mette in discussione il capitalismo, cioè un sistema basato sul massimo profitto attraverso lo sfruttamento di qualcuno, non si arriverà mai nessuna liberazione, anche se ci saranno tantissimi ristoranti vegani, se ci sarà appunto l'alternativa vegani nei fast food o quant'altro. Quindi secondo me a volte sì, c'è, come dici tu, la malafede, c'è il fatto di voler essere noti e quindi essere comprensibili per la maggior parte delle persone, ma buona parte delle volte c'è anche la superficialità nell'analisi, perché appunto siamo tutti educati al capitalismo, quindi la nostra analisi è all'interno del sistema la maggior parte delle volte, quindi svincolarsene è difficile, perché appena uno appunto riesce ad avere una conquista pensa di aver che sta cambiando il mondo, quindi continua quella strada non rendendosi conto che in realtà è ingabbiato ed è schiavo di un determinato sistema che in qualche modo vuole gli risorgerà contro a lui o a tutti gli altri esseri viventi, ecco. Io farei un'aggiunta, non solo al capitalismo ma a qualsiasi sistema di dominio, perché altrimenti poi potremmo in questo modo giustificare quei compagni che comunque vedono la lotta appunto di classe, degli oppressi eccetera, ma anche altre forme di lotta e discriminazioni come importanti e rivoluzionari, e però ancora si ostinano a considerare la lotta antispecista o tematiche anche ecologiste, radicali eccetera, come lotte borghesi o come così lotte di secondo piano, di secondo livello. Quindi mi riallaccio al discorso che fai tu, con cui sono pienamente d'accordo, e aggiungo, oltre il capitalismo, qualsiasi sistema di dominio, anche perché poi l'abbiamo visto anche nei paesi dove c'è stato il socialismo reale, che sicuramente non è quello che vogliamo, però non possiamo definirli paesi che sono stati capitalisti. Ci sono state appunto forme di sfruttamento indiscriminato anche sia tra gli uomini, sia per quanto riguarda la terra, anche politiche estrattiviste eccetera, o per quanto riguarda il nucleare eccetera, che hanno portato danni catastrofici. E quindi ogni tanto rimarchiamo anche quest'altro aspetto, di cui invece di solito non parliamo mai, però ci può stare, no? Sicuramente. Certamente. Vogliamo mettere una canzone, poi ci abbiamo... Ah, no, aspetta, vai, c'è un intervento? No, no, possiamo anche mettere una canzone. Io volevo fare un'altra piccola riflessione, però la posso fare anche dopo, non c'è problema. No, no, fai pure la riflessione, così scelgo la canzone. Va benissimo. No, volevo fare una riflessione appunto su molto banale, su appunto questo corteo, sulla discussione su violenza o non violenza, sulla scelta appunto di determinati gruppi piuttosto che altri. E non vorrei appunto, dico una cosa molto banale, però il messaggio che vorrei passare di questi microfoni è che comunque al di là di discussione contestuale su violenza o non violenza, vorrei far presente appunto la violenza quotidiana a cui vengono sottoposti tutti gli esseri viventi, quindi vorrei che questo fosse il messaggio che passasse da questi microfoni, al di là di qualsiasi poi pensiero personale, perché ovviamente ci sono stati molti dibattiti in tal senso e si è focalizzato molto l'attenzione su questo, e questo è il gioco per non considerare qual è la vera violenza che tutti i giorni subiscono tutti gli animali, umani e non umani, ecco. Certo, sicuramente poi quello che interessa soprattutto ai media è soltanto la dicotomia buoni e cattivi, per cercare di oscurare tutto quello che sono i contenuti di una manifestazione. Poi possiamo discutere all'infinito su quali sono le scelte migliori da fare, magari anzi ne riparleremo anche in futuro, possiamo avere opinioni così molto distanti, però hai fatto bene a ricordarlo, anche perché poi come dire, le vetrine non piangono, non provano dolore, invece una persona sfruttata per tutta la vita o un animale sfruttato, ucciso per sempre, è una cosa che non potrà mai più tornare indietro. Le vetrine si possono sempre riparare, al di là poi di qualsiasi forma di contestazione che si può fare anche appunto su il modo di stare in piazza, di comportarsi eccetera, i vari dibattiti. Sì, poi questa riflessione la facevo leggendo appunto i vari dibattiti tra gruppi antispecisti, pacifisti o non pacifisti, appunto puntando ad andare oltre questa anche contrapposizione dei gruppi, questi dibattiti, perché è vero che appunto c'è chi può proporre una modalità. No, non ti sente. Ricomincio da capo, quindi. Sì, forse hai mosso il cavo del microfono. Sì, vai. Diciamo, questa riflessione la facevo. No, non mi sento ancora? Adesso? Sì. Sì, che questa riflessione la facevo leggendo appunto la diatriba che si è aperta su internet tra diversi gruppi antispecisti, pacifisti o non, che comunque hanno avuto una serie di discussioni senza. E io vorrei consigliare di andare oltre queste discussioni, perché quello contro cui si focalizza appunto un gruppo antispecista è la violenza quotidiana che subiscono gli animali, quindi creare appunto queste diatribe e questa contrapposizione all'interno di un movimento che comunque si pone altri obiettivi è comunque fallimentare, ecco. Bisognerebbe discutere in maniera proficua, considerando che tutti insieme si porta una tematica di violenza quotidiana e portare avanti quelle tematiche. Poi si può discutere, penso apertamente, quando ci si possono fare delle assemblee, riunioni e quant'altro, ma è inutile fare questi litigi su internet, perché tutti insieme si dovrebbe invece portare un messaggio contro la violenza perpetrata ogni giorno. Vabbè, magari ne faremo una trasmissione poi di questa cosa in futuro, magari anche a microfoni aperti come abbiamo fatto in passato, un bel dibattito non sarebbe carino, male. Sì, sarebbe molto carino, anche perché conoscendo le dinamiche dei media, noi spesso e volentieri sappiamo come reagiranno sia per volontà diciamo di potere, cioè di proprietà dei mezzi di comunicazione, che quindi hanno interesse a comunicare in un certo modo e quindi a dividere il mondo tra buoni e cattivi, ma anche per sistema, per funzionamento stesso del sistema mediatico, che è un sistema che si basa sulla fretta, sulla moltitudine delle informazioni, che ha bisogno di semplificare il messaggio per arrivare con chiarezza alle persone. Quindi questo fa sì che inevitabilmente il mondo comunque sia incorniciato dentro un frame che divide spesso e volentieri tra buoni e cattivi. Ecco, quindi quando si porta un messaggio all'interno di un corteo, quella mia personale opinione è che più questo messaggio non ti identifica con un gruppo violento, più ha possibilità di non essere stigmatizzato dalla stampa. Va bene, allora poi appunto ne riparleremo su questo, ne riparleremo di questo argomento. Hai lanciato lì una chicca, ma si potrebbe discutere a lungo su questa cosa. Credo che qui dentro siamo quattro persone, ognuno potrebbe dire la sua completamente diversa. Ma sì, è un dibattito che sicuramente è interessantissimo fare, ma che comunque in questi ambiti purtroppo è l'unico dibattito che si fa, diciamo, nei media eccetera, ed è quello che è fallimentare. Poi si può discutere di tutto, però certo. Sicuramente infatti invitiamo tutti quanti a discuterne. Non ti si sente, devi prendere il microfono come facevi prima. Invitiamo tutti quanti a discuterne senza polemica, ma cercando di portare avanti con più forza appunto qual è l'obiettivo principale, che è quello di specifica. Va bene, allora non si è sentito quasi nulla di quello che hai detto, però credo che ascoltatrici e ascoltatori abbiano capito. Va bene, per andare avanti credo che abbiamo da presentare un'iniziativa per questa settimana. Vuoi che metto una canzone prima? No, come volete. Se vuoi ce l'abbiamo qui sotto gli occhi. Questo mercoledì allo spazio sociale 100 celle aperte di via delle Resede 5 a 100 celle verrà Massimo Filippi a presentare il suo libro scritto a quattro mani con Filippo Trasatti, Crimini in tempo di pace. Alle 19 in via delle Resede 5 allo spazio sociale 100 celle aperte ci sarà la possibilità di ascoltare la presentazione di Massimo Filippi, che tra l'altro è uno dei massimi pensatori dell'antispecismo contemporanei, che potremmo sicuramente conoscere di persona questo mercoledì e magari fargli qualche domanda per capire come la pensa e come intende la questione animale, cosa pensa per esempio di quello che è successo del corteo dell'Expo, che cosa pensa dell'Expo in sé, che cosa gli animali possono, che cosa gli uomini e gli animali possono fare insieme, che cammino possono intraprendere per riuscire in una liberazione vicendevole. Tutti questi temi potrebbero essere toccati e se ne saranno toccati anche molti altri. Questo mercoledì alle 19 in via delle Resede 5 allo spazio sociale 100 celle aperte. Va bene, allora se non abbiamo altre informazioni diamo i nostri contatti? Sì, allora se mi sento il nostro blog radiopossum.noblogs.org e la nostra email, se ci volete scrivere, è lagazzaladra@inventati.org. Sì, poi diamo anche i contatti della radio, come al solito vi ricordiamo che questa radio non fa uso della pubblicità, non prende finanziamenti né pubblici né privati, non ha padrini politici o padroni economici e quindi pertanto campa così della sottoscrizione delle ascoltatrici e degli ascoltatori, quindi vi vengo a dare quello che è il numero di conto corrente postale 6180 4001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Valci 5600185 Roma. Oppure per chi volesse c'è il sito www.ondarossa.info dove potete trovare tutte quante le notizie della radio, quindi quanto riguarda le trasmissioni redazionali o altri tipi di contributi, e c'è anche la voce sottoscrivi attraverso il quale potete sottoscrivere in maniera virtuale. Poi il numero di telefono 06 49 17 50 e l'email per chi ci volesse scrivere alla radio è ondarossa@ondarossa.info. Se non abbiamo nient'altro da aggiungere, direi che siamo più che a posto. Va bene, siamo a posto. Allora, come al solito, mandiamo un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati e privati della propria libertà personale, siano essi umani o non. Ciao. Ciao. Ciao.